Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, l'argomento di oggi è il welfare, o meglio potremmo dire era il welfare, visto che la situazione critica che, come leggete e sentite, è sempre più grave in realtà, e non solo in Europa. Il welfare, quindi lo Stato che assiste il privato, fa fatica sempre di più, e non è difficile immaginare che in prospettiva il ruolo del pubblico in questo ambito sia sempre più striminzito. Ecco che allora spunta all'orizzonte una nuova modalità, che è quella, diciamo, privata. Però può la struttura, può il sistema privato sostituirsi a quello pubblico su un tema di così grande portata, che coinvolge uno per l'altro decine di milioni di persone? Probabilmente no. Ecco che allora arriva una terza via, che poi è il secondo welfare, scusate il bisticcio matematico, ma la verità è che la terza via punta sul pubblico ancora una volta, insieme al privato e al terzo settore. Fortunatamente il welfare non è come la mamma che ce n'è una sola. Ecco il secondo welfare firmato Fondazione Cariplo, che sta coinvolgendo le altre fondazioni bancarie. Un esercito di 9.000 ragazzi si sta pagando gli studi grazie alla prima banca pensata per il non profit, e i conti per Banca Prossima tornano. Giornata nazionale della colletta alimentare. Un esercito di 11.000 volontari ci spinge a mettere nel carrello qualcosa da mangiare anche per i più poveri. Ed entriamo subito nel tema. Avete visto da tre angolature di visuali, quella delle fondazioni bancarie, quella di una banca privata, Banca Prossima, poi comunque espressione di Banca Intesa, quella poi del no profit, Banco Alimentare, e della colletta. Cominciamo con Giampaolo Barbetta, buongiorno. Buongiorno. Professore, lei è responsabile dell'unità strategica della Fondazione Cariplo, e quindi, come ci siamo detti in preparazione di questa trasmissione, lei è quello, l'uomo delle visioni, e in questo caso il secondo welfare non è certamente un'iniziativa singola ridimensionata sul territorio, ma è davvero, in questo caso letteralmente, una visione strategica. Lei come lo definisce il secondo welfare? Ma questa del secondo welfare è un bel neologismo inventato di recente, che non ha ancora un contenuto universalmente accettato, però direi che in maniera abbastanza semplice possiamo dire che fanno parte del secondo welfare tutte quelle iniziative di origine prevalentemente privata, sia da parte di soggetti a fine di lucro che da parte di soggetti senza fine di lucro, che mirano a migliorare le condizioni di vita delle persone, dei cittadini, nell'intera area dei servizi di welfare, come li chiamiamo solitamente, quindi in ciò che chiamiamo sanità, assistenza, educazione, ma anche in campi vicini che forse welfare in senso stretto non sono, come la ricerca ad esempio. Quindi tutta una serie di iniziative gestite e in larga misura anche talvolta finanziate da soggetti privati, che mirano a migliorare il benessere delle persone, dei cittadini, in particolare di quelli che si trovano in condizioni, ecco, un po' peggiori. Materialmente questo è lo scenario, questa è l'idea di secondo welfare, che non può che essere condivisibile, anzi auspicabile. Ma nei fatti, per esempio, ecco, il ruolo di Fondazione Cariplo quale può essere in un contesto, quindi scendendo poi nei particolari operativi e assistenziali del concetto? Ma Fondazione Cariplo è un operatore un po' particolare, è un soggetto non profit, quindi non ha una finalità di lucro, e ha la caratteristica abbastanza unica, peculiare, di avere un grosso patrimonio. Questo patrimonio dà dei rendimenti che ogni anno possono essere distribuiti, regalati sotto forma di grant, come dicono gli americani, di erogazione, per finanziare la fornitura di alcuni servizi in campo sociale. Ecco, più o meno, per dare un'idea ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una cifra abbastanza significativa. Fondazione Cariplo eroga ogni anno all'incirca 180 milioni di euro. Sono quattrini che sono regalati in larga misura a organizzazioni di terzo settore, non profit, come si dice oggi, che usano questi quattrini per finanziare la fornitura di servizi, una casa per bambini maltrattati, piuttosto che servizi di inserimento per lavorativo per disabili psichici, piuttosto che il rinnovo, la ristrutturazione di un museo e via così. Chiaro, in questo momento però l'idea è quella di triangolare, come abbiamo detto all'introduzione del programma, col pubblico e con il terzo settore per spingere, per coagulare una forza che è anche finanziaria evidentemente in grado di aprire filoni di secondo welfare consistenti. Sì, l'idea è proprio quella, la possibilità che la fondazione ha di usare queste risorse le consente di svolgere dei ruoli che probabilmente altri soggetti faticano maggiormente a svolgere. Proviamo a fare degli esempi. Ci sono alcuni modi in cui si potrebbe probabilmente migliorare la qualità dei servizi spendendo di meno. E allora il ruolo della fondazione è finanziare le sperimentazioni che consentono di vedere se riusciamo, ad esempio, è una delle cose che stiamo facendo, se riusciamo a favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica, cioè aiutarle a lavorare, meglio di quanto non facciamo usualmente. Cosa fa la fondazione? Si fa carico di finanziare l'esperimento, di mettere insieme i servizi pubblici da una parte con, dall'altra parte, le aziende che dovrebbero poi accogliere queste persone a lavorare, sperimentando modalità nuove di inserimento. Questo avviene in Lombardia con Fondazione Cariplo e state coinvolgendo, avete già coinvolto altre fondazioni di altre regioni per estendere sul piano nazionale l'iniziativa? Molte fondazioni si stanno muovendo, non su questo caso specifico, gliene faccio un altro su cui pure abbiamo svolto un ruolo pionieristico, il problema della casa. Sappiamo tutti che trovare casa, soprattutto per soggetti a basso reddito, è difficile. Abbiamo avviato in Lombardia una sperimentazione che diceva: proviamo a vedere se riusciamo a mobilitare risorse di privati, di investitori privati, per costruire alloggi che vengono dati in affitto a canoni moderati, calmierati, a soggetti deboli, scommettendo che una buona gestione possa consentire la remunerazione di questi capitali privati, anche se l'affitto che si fa pagare agli inquilini è basso. Abbiamo avviato queste sperimentazioni, abbiamo visto che la cosa è possibile, che può stare in piedi, e il modello si sta piano piano espandendo anche al di fuori della Lombardia. Quindi il ruolo che ci ritagliamo è proprio questo dello sperimentatore, dell'innovatore che è capace di mettere insieme da una parte le risorse pubbliche, perché un welfare senza risorse pubbliche non riusciamo certo, a tenerlo in piedi. Più quelle private, più il terzo settore operativo. Professore, grazie. Insomma, in bocca al lupo, perché è un bel progetto e speriamo che la contaminazione funzioni. Arrivederci. Grazie, a presto. E in questo caso di contaminazione si tratta parzialmente, perché la prossima, come dire, proposta di secondo welfare rimaniamo in casa intesa a San Paolo, che è collegata con Fondazione Cariplo e che è collegata anche con questa banca molto speciale che adesso vi presentiamo. Intesa San Paolo ha lanciato il primo prestito ponte tra l'università e il lavoro, che offre agli studenti, a condizioni particolarmente vantaggiose, la possibilità di studiare con un sostegno finanziario pensato appositamente per incentivare una conclusione rapida e ottimale degli studi. Possono accedere gli iscritti alle università convenzionate. Basta chiedere al proprio ateneo l'autorizzazione necessaria alla presentazione della domanda di prestito. Se lo studente ha acquisito i crediti formativi sufficienti, può accedere al prestito che viene erogato tramite un normale conto corrente, contanto di Bancomat. Come potete capire, anche questa è una, come dire, un modo di fare secondo welfare, no? Quello di una banca privata, perché così è, che si occupa di assistere i giovani studenti che devono frequentare l'università. Banca privata che si chiama Banca Prossima, e con noi l'amministratore delegato Marco Morganti. E buongiorno Morganti. Buongiorno a voi e grazie di questa opportunità. Ecco, intanto diciamo Banca Prossima è dell'universo della sfera Banca Intesa San Paolo, ma è una banca speciale, l'unica probabilmente dedicata al non profit. Infatti è una banca dedicata al non profit che merita questo tipo di specialismo, perché è diventato di dimensioni tali e ha problemi così seri di relazione col credito e ha di fronte a sé una tale rilevanza di servizi da rendere alla collettività che non si può affrontare tutto questo con una banca ordinaria. Quindi Banca Prossima si è, come dire, copre, ci mancherebbe, troppo grande il no profit per coprire, ma apre un filone preferenziale. A proposito di no profit, ma ho scoperto che non c'è un censimento sul no profit. In realtà l'Istat, tanto per fare nome e cognomi, non fa un censimento sul no profit dal 99. Infatti, allora, l'ultimo censimento disponibile, tutti i dati relativi sono del 2000, diciamo pubblicato nel 2000, rilevamento fatto nel 1999. Per un lungo periodo si è addirittura rischiato che non se ne facesse proprio di nulla di questo censimento così lungamente atteso. Adesso sono state trovate le risorse, pare che l'Istat riesca. Che si possa ripartire. Ora mi consenta di osservare che questo genere di rischio, addirittura di mancanza totale e definitiva di dati, dice qualche cosa sulla marginalità del non profit rispetto alla sua grande importanza reale, ha una percezione da parte della collettività molto molto ridotta. Almeno per certune parte della collettività. Ferry Boat. In viaggio verso l'economia sociale. Siamo con Marco Morganti, amministratore delegato di Banca Prossima, la banca del no profit, e perché adesso vogliamo che l'amministratore delegato ci spieghi questa iniziativa. Si chiama Prestito Bridge, mi piace dire che coinvolge un esercito di 9.000 studenti a debito zero. Infatti i due dati giornalistici sono questi, anche i dati che ci danno maggiore soddisfazione. Allora, siamo partiti con quest'idea ormai da qualche anno, il numero 9.000 è il risultato della somma di quanti studenti via via hanno preso questa opportunità al volo, è un numero molto alto, si potrebbe dire, sotto certi aspetti, è un numero molto piccolo rispetto all'universo, certo, d'Italia, certo, e rispetto all'universo italiano. L'universo italiano con 2 milioni di studenti ovviamente dice da solo, commenta da solo questi numeri, ma ancora più eloquente è la sproporzione tra l'uso del prestito universitario in Italia e quello che viene fatto in un paese molto simile al nostro sotto molti aspetti, per popolosità, per costo dell'università e per altri fattori ancora, che l'Inghilterra. Allora, in Inghilterra ogni anno si fanno 900.000 prestiti universitari, 900.000, ho detto bene. Quindi qualche zero in più soltanto rispetto al 9. Qualche zero in più e molti ragazzi che riescono a fare l'università non basandosi sulle risorse familiari, e né sul lavoro personale, che è sempre un lavoro dequalificato che ti manda in crisi da un punto di vista di rendimento scolastico e universitario, ma basandosi sulla fiducia che viene accordata loro con il prestito. In Inghilterra ci sono decenni di tradizione in questo senso. Certo. Ma materialmente voi cosa fate? Date un prestito, date dei soldi agli studenti che magari in genere non hanno grandi garanzie da dare, no? No, uno studente, in quanto studente, non ha nessuna garanzia da dare, proprio nessuna, e per questa ragione le banche si dimenticano che esista. Poi tornano a cercarlo quando sarà diventato un professionista, ma nella fase in cui si sta preparando invece la porta è chiusa. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato scommettere sul fatto, per altri versi molto naturale, che uno studente che sta facendo l'università con impegno e ha raggiunto già un certo livello di crediti superati, insomma già accumulato un certo numero di crediti, poi va avanti fino a laurearsi, questo è un dato statistico, e se si laurea domani diventa una persona in grado di restituire un prestito. Allora, sulla base di questo e non di altro, quindi nessuna garanzia personale, abbiamo messo insieme 25 università in Italia, oggi convenzionate con Bridge, con questo progetto ci sono 25 università, e gli studenti delle 25, purtroppo rimangono esclusi quegli altri, che sono la maggior parte, possono accedere a questi prestiti. Che soldi stiamo parlando per essere più... Quanti soldi parliamo? Parliamo di una cosa che gira intorno a 5, 6, 7 mila euro l'anno. Dipende dalle università, perché abbiamo dovuto superare il limite iniziale di 5 mila, perché alcune università hanno dei... Può sembrare un prestito veramente piccolo, però per le esigenze di uno studente non sono le esigenze di una famiglia, di un capofamiglia, sì, o di un adulto. È una buona osservazione questa sulla dimensione. Allora, 5.000 euro sembrano pochi, ed effettivamente è così, non si può certo dire che sia un'enorme cifra, però se confrontati con una borsa di studio italiana vediamo che valgono già più, pesano già di più di una borsa di una borsa di studio. Esatto, e oltretutto la cosa interessante è che gli studenti questi 5.000 euro non li sperperano come si poteva pensare così un po' irresponsabilmente, anzi ne fanno un uso molto morigerato, abbiamo anche una lettura statistica dell'uso che ne fanno. Alla prima voce c'è il pagamento dell'affitto. Dell'affitto e dei servizi, diciamo. Poi servizi, trasporti. Acquisto di hardware e software, qualche corso di studi. Quindi. Io l'ho definita debito zero, che concludiamo, ma spero di avere l'occasione di parlarne ancora perché è veramente una storia interessante. Debito zero perché di quelli che hanno cominciato a restituire il debito non ce n'è neanche uno che, come dire, ha evaso questo debito. È proprio così. E dunque i due dati fondamentali sono questi: che quando uno studente universitario prende il prestito, il primo effetto è che si mantiene regolare negli studi. E quindi la percentuale di studenti da noi osservati che sono in regola con gli studi all'interno del prestito sono direi intorno all'80%. Pazzesco, e quindi questo è eccellente come dato rispetto a un dato italiano che è intorno al 50%. Primo dato. Secondo dato, gli studenti che cominciano la restituzione, ma lo fanno dopo che è passato un anno dalla fine degli studi, perché per un anno devono potersi guardare intorno per cercare... Lo hanno fatto tutti. Tutti quanti stanno restituendo in perfetto tempo utile il denaro che abbiamo chiesto. Una restituzione lunga, a rate piccole, perché si voleva che fosse così, e a tasso fisso. Quindi ha anche un valore etico importante. Grazie, devo concludere purtroppo, ma ne riparleremo. Grazie, amministratore delegato di Banca Prossima, Marco Morganti. A presto. Arrivederci. E chiudiamo con una notizia in realtà, perché oggi è una giornata un po' speciale. È la giornata nazionale della colletta alimentare. La giornata nazionale della colletta alimentare è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. L'iniziativa si tiene oggi in oltre 8.000 supermercati italiani, dove 110.000 volontari stanno invitando i clienti a donare una parte della loro spesa per i più poveri. La colletta l'anno scorso ha permesso di raccogliere 8.600 tonnellate di cibo in un solo giorno. Quella di oggi è una giornata speciale che si aggiunge alla quotidiana attività di Banco Alimentare che nel 2009 ha raccolto 78.000 tonnellate di cibo donate a oltre 8.000 enti caritativi che hanno aiutato 1,5 milioni di persone in stato di indigenza. Numeri importanti. Vicepresidente Andrea Giussani, vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che organizza questa giornata. I vostri 110.000 volontari in questo momento sono in giro per i supermercati italiani e che cosa fanno materialmente? Avvicinano il consumatore che sta per andare a fare la spesa nel suo punto vendita, gli consegnano un sacchetto diversificato dagli altri, il consumatore fa la sua spesa e fa una spesa su prodotti indicati o perlomeno segnalati, e all'uscita riconsegna il sacchetto al volontario che poi lo ringrazia con un volantino, con un arrivederci e con un piccolo raccontino rispetto all'attività che durante tutto l'anno il banco fa. E dopo questo cibo viene trasferito in queste 8.000 enti? Per genere alimentare nei cartoni, nei vari scatoloni, viene distribuito in punti di magazzini di stoccaggio e distribuito nelle settimane successive a tutti gli enti che sono convenzionati e che noi aiutiamo a loro volta a ridistribuire ai poveri. Grazie Presidente, invitiamo anche gli ascoltatori che seguono Ferribotto, ovviamente, che vanno al supermercato, individuate subito. Come si riconoscono i volontari? Si riconoscono perché hanno delle pettorine gialle con scritto Giornata Nazionale della Colletta, sono molto numerosi, quindi nessuno può sfuggire. Grazie Presidente e complimenti per quello che fate per la gente che ha bisogno. Grazie a voi, buona colletta. Risentirci. Grazie Anita Panizza in redazione, la regia di Roberto Scaltritti e radio24.it, lì c'è il programma che potete riascoltare quando volete. Alla prossima puntata.